musica è l'istinto che mi guida la via, che si trasforma in abitudine. Ma mi scappa da ridere insensibile alla politica, contro tutto e tutti come mi vuoi, e cresco solo in altitudine. È il mio modo di vivere, vivo distratto, non sento niente, lascio le cose a metà. Io non mi adatto, dice la gente, faccio le cose a metà. Con l'autoscatto mi guardo dentro, vedo che tempo sarà. Io non mi abbatto, mi metto al centro e tutto il resto verrà. Il pensiero va stroboscopico, cito Fedez e la Bibbia se vuoi. Imparo tutto in due minuti, sai. Leggo solo Aranzulla, la mia dieta sì, psichedelica, bevo tutto senza fiato che poi precipito in una voragine. È la scossa per vivere. Se fosse